Tempo di Sport. Buon pomeriggio a tutti da Carlo Genta, Tempo di Sport della domenica, solita mezz'ora in periodo estivo. È stato un weekend essenzialmente di motori, con anche Wimbledon che ha osservato la classica domenica di riposo, con gli operatori del calciomercato che sono in spiaggia, almeno credo. Ebbene, è stato un grande weekend di motori, allora ne parliamo. Eni vi presenta Sport e Motori. Sport e motori, un sacco di motori con il Gran Premio di Valencia, Gran Premio d'Europa, che si è chiuso da non molto, che ha regalato un sorrisetto alla Ferrari, perché Vettel è un missile, è imprendibile, non è battibile, io credo, in questo mondiale, ma Alonso taglia il traguardo alle sue spalle a 10.891, terza è Webber sull'altra Red Bull, quarto è Lewis Hamilton, quinto un Felipe Massa che davanti ad Hamilton, come tra poco sentiremo, pensava di poter arrivare, sesto un deludentissimo Button, weekend da dimenticare per la McLaren e ancor più per la Mercedes, settimo è Rosberg appunto su Mercedes, mentre Michael Schumacher ha chiuso nelle retrovie, tristemente 17esimo, l'ex campione piglia tutto. Ottavo Alguersuari, nono Sutil, decimo Heidfeld, in un Gran Premio in cui, curiosissimo questo, forse mai era accaduto e tra poco chiedo conferma al professore, mai era accaduto, tutte le macchine che sono partite sono arrivate al traguardo, tutte e 24, compreso Kartikeyan 24esimo. Appunto, è chiaro che c'è un abisso tra le prime e tutte le prime sette, diciamo, e tutte le altre che sono arrivate doppiate. Sembra un campionato del mondo diviso in Lega 1 e Lega 2 quasi. Mario Poltronieri, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Carlo, buongiorno a tutti. Come leggi questa gara? Come hai letto questa gara? Beh, diciamo che la Ferrari si è confermata in crescita. Naturalmente non è ancora nelle condizioni di competere con la Red Bull, anche perché questo era il terzo circuito, diciamo così, favorevole, cioè dove l'effetto suolo, diciamo aerodinamica, è relativamente meno importante. E si aspettava che questo mezzo cambiamento, perché il prossimo sarà per la prossima gara a Silverstone, nella questione degli scarichi, cioè cambiando la mappatura del motore, perché per dare meno effetto di depressione sotto la macchina, quindi per aumentare l'effetto suolo, avrebbe danneggiato la Red Bull, ma in realtà non si è visto, e penso che anche domenica, fra 15 giorni, il problema sarà più o meno lo stesso. Diciamo che la Red Bull va fortissimo, che Vettel si sta dimostrando un pilota di estrema solidità e con un passo veramente... Ma come domanda un ascoltatore via SMS, Mario, può diventare il tedesco più vincente di sempre? Cioè, vista l'età, vista la classe, è chiaro che in questo momento ha una macchina imbattibile, però può addirittura pensare di arrivare un giorno davanti nella leggenda Michael Schumacher? Diciamo che la strada la sta facendo, si tratta adesso di vedere appunto nel proseguo del tempo, delle stagioni e così via, se disporrà sempre di un mezzo molto competitivo, perché purtroppo il pilota rispetto agli anni passati, molto lontani diciamo pure, conta relativamente meno. Oggi chi conta di più è evidentemente la squadra. Sicuro. Che ti mette la macchina in condizioni da poterla sfruttare al massimo in funzione delle tue capacità. Con la variabile aggiunta in queste stagioni per rendere più spettacolare le gare, che è quello del cambio delle gomme, dell'obbligo di usare due tipi diversi di gomme, cioè valide uno no, e più quelle fermate ai box, perché per esempio oggi Massa, poverino, è stato handicappato dal fatto che l'hanno tenuto fermo 8 secondi e passa per quel problema la gomma posteriore. Torniamo, per l'appunto, Mario, torniamo un attimo alla corsa della Ferrari. Le due Ferrari sono partite davvero molto bene, soprattutto Massa, che a un certo punto è andato ad attaccare la seconda posizione di Webber. Poi è stato chiuso da Webber, è arrivato Alonso, ha superato anche il compagno di squadra e si è portato in terza posizione. Il sorpasso di Alonso è avvenuto ai box, come al solito, no? nel secondo pit stop, sì. Sorpasso su Mark Webber. Però evidentissimi problemi del box Ferrari con la macchina di Massa, che ha perso un sacco di tempo, altrimenti probabilmente sarebbe riuscito, come desiderava, arrivare davanti ad un Hamilton non così competitivo oggi. Però qualche problemino di pit stop c'è stato per la Ferrari. Non sono nemmeno il box Ferrari è più il box campione del mondo che ricordiamo, insomma. Sì, altri tempi, effettivamente. Diciamo che la complessità di questi lavori da fare in tempi così ristretti può avere qualche attimo di differenza, però effettivamente alla Ferrari una volta, diciamo la verità, comunque erano in quattro meccanici bravi alla Ferrari, perché non c'era questa pletta di personale tutto attorno che interferisce nei movimenti, per quanto uno studi esattamente che cosa bisogna fare, è chiaro che qualche attimo si può perdere. Sì. Uno sport dove ormai le macchine hanno distanti di millesimi di secondo, dove il problema dei box è quello dei decimi di secondo, se non appunto dei centesimi, è chiaro che basta un alito di vento per modificare la situazione. Certo, dalla Ferrari ci si aspettava che guadagnasse sempre qualcosa anche nell'operazione, certo, di box, però come dico siamo veramente ai limiti, per cui non possiamo incolpare loro. No, certo, non si può dire la Ferrari non va per colpa dei box, perché sarebbe semplicemente una sciocchezza. Ecco, dimmi. No, nella storia della Formula 1 ci sono stati tanti momenti in cui le vittorie erano ottenute soprattutto per il merito dei meccanici o per il merito delle gomme, tant'è vero che si diceva sempre: ma che razza di campionato piloti è questo qua? I piloti, sì, non contano niente. Era diventato un campionato meccanici, campionato meccanici e campionato ingegneri. Senti, Mario, invece guardando la classifica mondiale mi sembra evidente che il discorso sia chiuso quasi, no? Perché c'è Vettel che ha 186 punti e ne ha 75 di vantaggio su Button e Webber. Il distacco di Alonso, e questa è una piccola umiliazione, è ormai vicino alla tripla cifra, 87 punti a Alonso, 99 lunghezze di distacco dal campione del mondo. Però d'altra parte non dimentichiamoci che tre gran premi fa si cominciava già a dire la Ferrari è meglio che pensi subito alla macchina del 2012, anzi Briatore l'aveva detto addirittura all'inizio della stagione. Adesso bisogna riconoscere alla Ferrari invece di essersi impegnata veramente, quindi su questi circuiti appunto dove c'è poco carico aerodinamico sono riuscite a diventare praticamente il secondo team. Non dimentichiamoci che la McLaren, che aveva vinto sia pure con qualche abilità e qualche sfortuna la corsa precedente, oggi è praticamente scomparsa. Sì. Quindi la Ferrari oggi è stata veramente protagonista dai primi metri della gara fino alla conclusione, per cui diciamo che la Ferrari ha fatto più di quello che ci si poteva aspettare. Questo può far credere che ci sia allora la fiducia e la volontà per insistere ancora durante questa stagione, purché questo non condizioni poi, certo, il progetto dell'anno 21. Gli sviluppi futuri. Che non sarà sostanzialmente molto diverso da questo, perché tra l'altro il regolamento che prevedeva la modifica nel 2013 è stato rimandato al 2014, quindi si va avanti ancora con questo e non con il 1.6 turbo, sì, sì, ipotizzato, sì, sì. E poi il regolamento lo prevede adesso non di 4 ma di 6 cilindri per dare un contentino a quelli che hanno le macchine da 8 e da 12 cilindri. Mi piace questa ricerca di cercare di cambiare anche il numero dei cilindri. Comunque è politichese, è puro politichese applicato alla Formula 1 e allo sport in generale. Invece un'altra cosa, io ho la sensazione, appunto tu parlavi di una gerarchia che adesso vede la Ferrari come il secondo team con tutto il distacco del caso e con questa macchina sbagliata, perché è il caso di dirlo chiaramente. alle spalle della Red Bull. Credo che la prossima corsa, dopo Monte Carlo, Canada e Valencia, che sono stati tre gran premi, come dicevi tu, anomali, sì, si va su un grande classico, no? Su un classicone della Formula 1 come Silverstone, circuito molto veloce in cui l'aerodinamica conta molto, ed è quel settore in cui questa Ferrari sbagliata ha avuto i maggiori problemi fin dall'inizio. E vediamo che cosa succede, perché tra l'altro io penso che a Silverstone la McLaren torni a essere tra le maggiori protagoniste, quindi la Ferrari trova un avversario in più. Però francamente la gara di oggi mi ha soddisfatto rispetto a quello che mi aspettavo, perché dal primo metro è sempre stata in corsa, non c'è stata una fase, una pausa, un rallentamento eccetera. Insomma, io credo che Maranello siano veramente molto contenti, del resto anche Domenicali l'ha subito detto. Sì. Direi che si può augurare al Ferrari una seconda parte del campionato, e non siamo ancora in realtà alla seconda parte, abbiamo fatto 8 gare su 15, ma di avere un futuro relativamente roseo, che sarebbe già un grande risultato rispetto a quello che dicevamo certo. Dall'inizio del campionato mesi fa. Sì. E chi avrebbe bisogno, se mi consenti una digressione che però è importante, chi avrebbe bisogno di trovare maggiore tranquillità è Simoncelli, perché se andiamo a parlare della corsa di ieri ad Assen delle moto, bisogna dire che questo ennesimo errore comincia a dimostrare che Simoncelli è molto bravo, molto veloce, ma non sa ancora padroneggiare i nervi e la situazione. Vogliono ritirargli la patente, c'è Lorenzo, insomma, che ha proposto il ritiro della patente per Marco Simoncelli, che in effetti va per terra un po' troppo spesso. Sport e motori. Allora, ancora una battuta con Mario Poltronieri. Andando a ieri ad Assen, questa gara vinta da Best Peace, pilota che a me piace moltissimo, però con Simoncelli che cade di nuovo per terra e con una Ducati che, presentando una moto nuova, anticipando i tempi quasi per disperazione, arriva quarta con Valentino Rossi. Volevo un tuo commento appunto sulla gara di Rossi. Sì, beh, è un momento difficile, comunque direi dalla somma delle impressioni della gara di ieri è che Spies finalmente comincia a essere quello che si aspettava dopo aver visto i trionfi nel Superbike, perché aveva cominciato un po' in sordina. Ieri mi è piaciuto comunque nell'intervista dopo corsa che alla domanda adesso pensa al campionato, dice no, adesso io penso a vincere il campionato, vediamo l'anno venturo. Ecco, questa calma dovrebbe averla Simoncelli. Lorenzo è stato molto sfortunato, perché effettivamente Simoncelli gli è caduto davanti. Sì, gli è caduto sotto le ruote, certo. Dovevi ricordarti che lì sarebbe stata la gomma fredda. E qui io vengo al discorso di questo eccesso di ricerca tecnologica, praticamente inutile, e che crea delle complicazioni artificiose. Perché non è ammissibile che uno abbia la gomma che sul lato destro va bene a una certa temperatura se faccio un certo numero di metri, sul lato sinistro invece bisogna aspettare che, insomma, la cosa praticamente, vedi, quando ti dicevo in Formula 1 quello che conta è la squadra, e infatti se uno va a vedere in Formula 1 ci sono dei box pieni di computer che mi fanno sembrare la sala di quando si lanciò la sonda sulla Luna. Sì, è vero, cioè, è vero. Mi sembra un'esagerazione rispetto a quello che dovrebbe essere lo spirito dello sport. No, non c'è dubbio, Mario, di questo discorso dell'eccesso di tecnologia, anche in elegante se vogliamo, l'abbiamo fatto molte volte e ci troviamo d'accordo. Mario, ci sentiamo alla prossima, grazie, okay, un abbraccio. Ciao. Grazie a Mario Poltronieri. Io volevo, prima di tornare sul discorso moto mondiale, che mi sembra anche più interessante rispetto a quello, alla cronaca di oggi, cioè al Gran Premio di Valencia, dove tra l'altro ci sono diversi numeri interessanti, al di là di questo dato statistico molto curioso per cui tutti e 24 i piloti che sono partiti hanno tagliato il traguardo, pur con molti doppiati, perché solo i primi 7, se non ricordo male, erano a pieni giri. C'è anche un altro dato che dimostra come il pubblico spagnolo sia stretto intorno ad Alonso e come comunque la passione spagnola abbracci anche il mondo dei motori. 163.061 spettatori paganti nei 3 giorni del Gran Premio d'Europa a Valencia, mi sembra un dato enorme, onestamente. Vorrei, per chiudere il discorso Formula 1 e poi andare sul moto mondiale, decisamente farvi sentire anche cosa ha detto dopo la corsa Felipe Massa. Sì, una gara buona dove eravamo lì in lotta. È vero che non abbiamo entrato in box prima come gli altri perché eravamo preoccupati che la nostra macchina con le gomme medie non funzionava come si doveva, e quindi abbiamo tenuto il passo con la morbida, che non andava male. E è vero che ho perso, non so, forse 8 secondi nel pit stop. Quello mi ha tolto la possibilità di lottare con Hamilton, che era molto molto possibile arrivare davanti a lui alla fine. Però è stata una buona gara, cioè abbiamo finito quinto. Dovevamo finire tutte e due macchine davanti alle due McLaren, però non è stato male. Questo era Massa, ma io voglio tornare sul discorso del moto mondiale e lo faccio con un pubblico appuntamento preso l'altro giorno con il direttore di Riders, Roberto Ungaro. Ciao direttore. Ciao, buonasera a tutti. Regalami un commento sulla gara di Rossi, sulla rossa di ieri. Questo quarto posto tu come lo leggi? Allora, sono caduti due davanti, sarebbe un sesto. In ogni caso non sembra così sulla carta un bel risultato, e invece c'è da dire quasi mezzo miracolo, perché hanno portato una moto che era un grosso punto di domanda. Ha piovuto nelle prime qualifiche, non hanno potuto metterla a posto, ma soprattutto non c'è un precedente. Una moto nuova a metà stagione così radicale non c'è mai stata prima. Coraggio, atto di coraggio, avevamo detto, di Filippo Preziosi, e ci si aspettava di più, però, in effetti. È un buon lavoro in proiezione della stagione 2012, è fino portato in casa per l'anno prossimo. Questa stagione ormai è andata, non c'è niente da fare. Domenica al Mugello non penso che possa fare il miracolo. La moto quella lì, abbiamo detto, Valentino non è ancora finito, non è arrivato al tramonto, perché Valentino sa curvare, e invece con questa moto litiga, lo si vede che in ingresso non entra e non riesce a dare il gas quando è a centro curva alla corda per uscire velocemente. È un problema di moto. Valentino e questa moto non sono una cosa sola e devono, come detto, rivoluzionarla. Speriamo che basti, perché lo ricordo, è il concetto base della Ducati, che è molto strana: motore portante con uno strapuntino davanti, uno strapuntino dietro, che è il telaio, e questo fa la differenza. Grande gara di Spies, mi permetto di dirlo, finalmente sì. È venuto fuori, lo si aspettava, sì. E fa parte di quelli veri. Peccato per Lorenzo, perché inseguiva a livello di campionato. Una sorpresa vedere Stoner fermarsi lì e accettare il secondo posto, ma in campionato gli serve così. Gara noiosa, permettetemelo, pochi sorpassi, distacchi enormi, non è stata una gara esaltante. Sono d'accordo, direttore. Tra l'altro Ben Spies, pilota che a me piace moltissimo, mi è anche molto simpatico. Io ho letto diverse sue interviste, anche sul tuo giornale, peraltro, quando ancora correvo in Superbike. È sì, un personaggio anche Ben Spies. Sì, è molto timido, gira con la mamma, è atipico, perché infatti lui dice sì, sono un figlio di mamma, ma lo ammetto, è una situazione familiare molto particolare. Lui quando venne in Superbike non conosceva le piste e vinse la prima stagione, fenomeno. Poi l'anno scorso in MotoGP è stato lì, ha fatto esperienza, e quest'anno eccolo. Poteva venire fuori anche prima, è arrivato adesso la prima vittoria, spero che si sblocchi, ma è un'ottima cosa. È un ragazzo molto, molto sano, è timido, non è un personaggione. Però ce ne fossero dei piloti così, sicuro, molto veloci. L'ultima cosa, io te la voglio chiedere su Simoncelli. C'è qualcuno che adesso gli vuole ritirare la patente. Certamente le cadute, ti ricordi Rolling Stoner? Adesso non so coniare immediatamente su due piedi un detto relativo a Simoncelli, però queste cadute seriali cominciano ad essere troppe. Mi sembra la quarta in 7 gare, sì. Però io ti dico una cosa, è più difficile arrivare ad essere un veloce, fare delle pole, esserci soprattutto di passo, che poi correggersi. Cioè la cosa più difficile l'ha fatta Simoncelli. Adesso deve imparare la strategia, gestire la pressione. Qui ha detto che non è stato un errore, gomma fredda, però poteva benissimo aspettare un attimo, non alla quarta quinta curva, entrare così su Lorenzo e cercare subito di dire la sua. Io spero che, cioè spero, il potenziale c'è, deve solo sapersi gestire. Quando arriverà la prima vittoria vedrai che lui si sblocca e potrà far parte di quelli veri. Ripeto, è più difficile andare forte e arrivare a quei livelli. Lui è ancora in tempo per correggersi e diventare un vero campione. Grazie direttore, è sempre un piacere. Un saluto a tutti. Grazie a Roberto Ciao. Ungaro, direttore di Riders. Direi che chiudiamo qui lo spazio dei motori e anche più o meno la nostra trasmissione. Sport e motori. Caso di cronaca ce n'era tanta. Per quanto riguarda invece tutto il resto dello sport, dicevo prima, gli operatori di mercato che evidentemente oggi erano allungati sulle spiagge, non ci sono novità, non ci sono quasi nemmeno fantasie, ma avremo tutta la settimana per parlarne con la Tempo di Sport, a cominciare da domani alle 14 e fino a venerdì. Beh, notizie di oggi sono tra il comico e il ridicolo, come i giornali inglesi che scrivono, magari poi è vero, di un'offerta da 43 milioni di euro sul tavolo dell'Udinese per Alexis Sanchez. L'Udinese intanto è lì che sfoglia la margherita e deve tornare a sfogliare la rosa, perché è veramente troppo ampia. Inler e Sanchez saranno comunque i nomi della settimana. Si aprirà anche, domani ne parleremo a lungo, la prima settimana intera di Giampiero Gasperini da allenatore in pectore dell'Inter. Tutti argomenti che tratteremo domani con i nostri ospiti, con i nostri ascoltatori, dalle 14 alle 15 con A Tempo di Sport. Io naturalmente vi aspetterò qui. Ringrazio Marco Lombardo per il lavoro in redazione, Paolo Corleoni in regia. Buona serata, ci sentiamo domani.